Torniamo a parlare della decima edizione di Maremma Veglia a teatro con il Baratto a Manciano dal 15 al 18 di settembre. La scorsa settimana ne abbiamo parlato con l'ideatrice, la direttrice, l'anima portante che è Elena Guerrini. Stavolta ne parliamo con Livia Grossi che nella giornata del 18 porterà due reading musicati. Intanto Livia, benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Eccoci, benvenuti anche a voi, grazie, nella mia giornata incasinatissima. Allora, intanto buongiorno, vedendo il programma mi sono subito interessato al tuo lavoro, ho chiesto i riferimenti ad Elena e quindi siamo entrati in contatto. Tra l'altro sì, ho visto che sono anche in rete e a questo punto te lo propongo in diretta, visto che qui facciamo gli spettacoli dal vivo in studio o mandiamo in onda registrazioni, potremmo fissare una data per questa tua registrazione e poi riparlarne con te chiaramente. Certo, bene, molto piacere. Allora, si tratta di due storie e raccontacele tu, Livia. Sì, allora, il primo è il lavoro decisamente più impegnativo, si chiama Ricchi di cosa e poveri di cosa. È un titolo che già, insomma, invita a una riflessione, a una definizione della parola ricchezza e povertà. È un viaggio inchiesta che ho realizzato in Africa, tra Burkina Faso e Senegal. Il motivo che mi ha spinto ad andare in questo luogo, veramente in Africa ci vado da circa una ventina d'anni per fare reportage, ma il motivo che mi ha spinto ad andare appunto in Burkina è questo. Occupandomi di teatro, scrivo per il Corriere della Sera da una 18-20 anni, sento sempre lamentele di molti teatranti che giustamente dicono ma insomma non ci sono soldi per riuscire a realizzare le nostre produzioni, continuano a tagliare eccetera eccetera. Per contro, dall'altra parte, sento che alcuni attori che sono fuggiti dal nostro sistema teatrale là invece riescono a mantenersi facendo teatro, e anche loro colleghi africani, al che ovviamente la questione è un po' bizzarra, no? E quindi sono partita per capire come mai il sesto paese più povero al mondo, quale il Burkina Faso, ha più di 200 compagnie teatrali che si mantengono facendo teatro. Si scopre che fanno un teatro utile, ovvero le persone sotto i bab, in mezzo ai cortili e tra i panni stesi, nella terra rossa, tra bambini urlanti e galline che camminano nella quotidianità proprio della vita, si svolge il teatro, si tiene il teatro. I temi sono AIDS, morti per parto, infibulazioni, ma anche come ci si cura con le erbe e come si affrontano i viaggi tragici molto spesso che riguardano appunto chi emigra. Quello che si definirebbe qui un teatro civile, insomma. Esatto, un teatro civile, un teatro di informazione, un teatro di formazione e prevenzione sociale anche, perché chiaramente cioè le persone poi si trovano a discutere e non sono più sole di fronte a quei temi. Quindi il teatro svolge proprio una funzione decisamente importante che entra nella quotidianità, e quindi anche il pubblico che insomma non ha certo grosse risorse economiche dona con molto piacere quella moneta, quel piccolo supporto economico che serve per così aiutare e continuare il lavoro dei teatranti, che continuano, ripeto, a fare questo fondamentalmente. Io li ho trovati meravigliosamente vicini a me, li ho sentiti dei colleghi di lavoro perché vanno in formazione, e quindi ho avuto anche il coraggio di dire ma sai com'è, forse oltre che scrivere sulla carta stampata si può anche dire il pezzo, quindi metterci la faccia, il corpo, le emozioni, lo sguardo, e andare in scena, che non vuol dire per forza all'interno di un teatro ma anche ovunque, in uno spazio comunque condiviso, e poter portare informazione, poter portare quindi, e per questo c'è la formula reportage, quindi giornalismo teatrale, perché presuppone appunto un incontro dal vivo con la persona che ascolta. E questa è la prima parte del lavoro, che apre tra l'altro con un pezzo, un estratto del discorso di Thomas Sankara, meraviglioso presidente ucciso a metà degli anni 80 in Burkina Faso, che era considerato un po' il Che Guevara africano, e è un lavoro che dice immediatamente, insomma, e vuole porre immediatamente la domanda sul debito pubblico, che era proprio il centro del suo discorso, ed è ancora un argomento decisamente attuale, sì, perché da lì molte delle crisi economiche e del tallone sotto il quale sono schiacciati i paesi africani, insomma, la racconta molto lunga ancora oggi, insomma, su questo. La seconda parte invece è sul Senegal e è sulla migrazione al contrario, ovvero senegalesi che nella mia città, Milano, vedo in grande quantità presenti, anche molto attivi tra l'altro sul territorio, che hanno deciso di far scadere il permesso di soggiorno e di tornarsene a casa. Dico anche delle cifre, insomma, che sono importanti come flussi migratori al contrario, perché secondo ovviamente i flussi migratori è la crisi che decide dove e cosa fare di se stessi e della propria vita, non è certo il colore della pelle o la cultura. E quindi senegalesi che qui prima guadagnavano, insomma, 1.500-2.000 euro, dipende dal lavoro che facevano, hanno deciso che con la crisi economica imperante non vale più la pena, il gioco non vale più la candela, e se ne tornano a casa. E li ho intervistati, immigrati di ritorno, e per contro italiani che dicono: ma io con 300 euro, 400 euro di pensione che cosa sto a fare in Italia? Ci vuole più coraggio a rimanere qui che non partire. E quindi ho intervistato italiani che hanno deciso di cambiare vita, e con quei pochi soldi che hanno appunto a disposizione in Senegal riescono a realizzare una quotidianità e anche una socialità decisamente differente. Quindi è, diciamo, uno sguardo sull'immigrazione che spiazza un pochettino rispetto a quello che sono le notizie, purtroppo, di cronaca che continuano ad affollare i nostri quotidiani. Non ne voglio assolutamente negare, non sto dicendo che ci sono barconi di italiani che vanno in Africa e africani che se ne vogliono tornare, perché sarebbe ovviamente una falsità. Però volevo dare un altro sguardo, dicendo: la crisi può invertire anche le rotte, sì, cioè, sì, anche sì, noi ci siamo in mezzo, potremmo essere anche noi gli immigrati. Sì, tutto sì. Questo è con un musicista africano che mi accompagna in scena, e alle mie spalle video, interviste e foto realizzati da Emiliano Boga, e sono appunto alle mie spalle, come se fosse proprio un servizio giornalistico, solo che al posto di essere sulla carta stampata è dal vivo, perché appunto sono io in scena a dire il pezzo, sì, e a guardare negli occhi il lettore e lo spettatore. E dopo sono a disposizione ovviamente del pubblico, certo, certo, per qualsiasi tipo di domanda e quant'altro. E, ecco, e questo è il primo lavoro. Poi il secondo. È estratto da un'intervista che ho realizzato al Centro delle Rifugiate Politiche di Milano, in via San Martini. È un nome fittizio, Maria, in verità è una donna che mi ha chiesto assolutamente l'anonimato, perché era ancora terrorizzata dopo anni che comunque ha subito quello che ha subito nel suo paese d'origine, un paese sudamericano. E niente, è stato un incontro tra due donne più che un'intervista, perché lei non me la voleva rilasciare questa intervista, perché era ancora appunto terrorizzata. Quando le ho raccontato invece un paio di fatti miei personali e di come si viveva in Italia con le leggi antiterrorismo alla fine degli anni 70, lei ha avuto fiducia in me e ha deciso di lasciarsi andare, e quindi ha richiamato la traduttrice e ha detto: vieni qua, adesso diciamo tutto. E è l'incontro quindi tra due donne che si raccontano, che dicono le violenze del potere, gli abusi del potere, e è poi chiaramente la parte più importante, è la sua testimonianza, che io ho tradotto appunto in versione reading, sempre accompagnata da una musicista, e fa parte di un lavoro che si chiama Nonostante voi, storia di donne e coraggio, che ho presentato al Teatro Franco Parenti questa stagione scorsa, tra aprile e maggio, e che probabilmente tornerà. Ecco, questo è un po' così in sintesi, spero di non aver annoiato. No, figurati. Ho cercato di fare il più fretta possibile. Mi sento sempre molto meglio vederle le cose che certo, poi, certo. Livia, questo è un po' il senso. A proposito del fatto che dicevi prima che sarei a disposizione del pubblico, sì. Allora sarei a Manciano in quello che è il Maremma Veglia a Teatro con sì. il Baratto, dove tra l'altro vengo con piacere ogni anno. Provenienza dalla tradizione contadina del ritrovarsi a sera dopo la giornata lavorativa tutti certo. insieme per i racconti e questa, anche questa usanza del pubblico che deve portarsi una sedia, deve portare al posto del prezzo di un biglietto dei generi alimentari per gli attori. Ecco, questa formula come ti ha interessato, Livia? Ma guarda, io l'ho trovata decisamente attuale, anche se molto antica nello stesso tempo, cioè perché il baratto è una forma assolutamente, voglio dire, della memoria più antica. In Africa funziona ancora tantissimo, poiché qui la vogliamo chiamare sharing economy perché è più affascinante, va benissimo, però ecco, la verità è che ha a che fare con dei bisogni reali, pratici, concreti, dove ognuno dà a seconda di quello che sono appunto le proprie possibilità e i frutti del proprio lavoro. Io posso raccontare storie perché le ho vissute, sono andata a raccoglierle sul campo in paesi lontani o appunto a un centro di rifugiati politici, come dicevo prima, e posso dare il mio contributo, raccontare la mia storia e parlare con le persone. E dall'altra parte ricevo beni di altro tipo, importanti, e mi alimento come le storie possono alimentare ed aprire nuove visioni. Ecco, ci sono anche altri modi di alimentarsi che sono più materiali, ma non per questo meno importanti, anzi è il motivo per cui molte persone si muovono e purtroppo sono costrette ad abbandonare la propria terra, proprio perché non ci sono neanche i generi di prima necessità a disposizione. Quindi la cultura e le storie, un genere di prima necessità, tanto quanto in questo caso, perché siamo in Italia, insomma, non siamo sotto le bombe, la cultura è un genere di prima necessità, tanto quanto il poter scambiare appunto doni della terra, come vino, frutta e quant'altro verrà donato dal pubblico. Ecco, questo secondo me è un'idea meravigliosa, perché avvicina nella realtà le persone, certo. Proprio è un bellissimo scambio, arricchente da tutte e due le parti, ecco. Allora, tu sarai domenica a Manciano, l'orario, Livia? Ma allora sicuramente sarà dopo il calar del sole, perché essendoci le proiezioni, certo. Deve essere sicuramente all'aperto, da quanto mi hanno detto, e perciò alla sera, mi hanno detto intorno alle 21, alle ecco, 21, quindi più o meno diciamo da quelle parti. In caso di brutto tempo, mi diceva Elena Guerrini, che si farà comunque all'interno, quindi comunque si farà, che stanno individuando, sì, quindi nessuna sì. paura. Ci vediamo in ogni caso lì. Benissimo, sul luogo. Livia, ci lasci anche un riferimento web per saperne di più sul calendario di tue performance? Guarda, io ho aperto apposta il mio profilo Facebook solo esclusivamente per comunicare certo. possibili date, quindi mi trovate su Facebook Livia Grossi, mi vedete subito, perché la mia foto, diciamo, di copertina è con dietro un cartello durante un viaggio che ho fatto in Marocco, quindi insomma si vede occhiali da sole e scritta araba alle spalle, mi individuate subito. Benissimo, ecco. Allora ci vediamo domenica a Manciano, un abbraccio, Livia. Grazie mille, a domenica. Ciao. Arrivederci a tutti, vi aspetto. Ciao ciao.